Continua la colonizzazione illegale. In un comunicato stampa, il movimento pacifista israeliano Peace Now ha lanciato un allarme sulla costruzione delle colonie, affermando che essa è nel momento più intenso degli ultimi 7 anni. Nei territori del 48, cioè la cosiddetta Israele, la costruzione edilizia ha subito un calo dell'8,9%, mentre gli insediamenti in West Bank hanno visto un aumento del 176%. L'11 maggio il premier sionista Netanyahu ha rinnovato la sua contrarietà al blocco dell'espansione degli insediamenti illegali, affermando che i colloqui di pace con i palestinesi non devono essere soggetti ad alcuna precondizione. Un milione di mine avvelena la West Bank. Il funzionario dell'OLP all'ONU, Maan Erekat, ha dichiarato che nella West Bank le forze d'occupazione hanno impiantato nei terreni almeno 1 milione di mine, mettendo in pericolo la sicurezza dei palestinesi. Gli occupanti sionisti hanno cominciato a impiantare mine sin dal 67 per cosiddetti motivi di sicurezza, e ad oggi esistono 51 campi minati tra Gaza e la West Bank. Siamo alle carceri, dove continua lo sciopero dei prigionieri giordani. Siamo ormai al 45esimo giorno di sciopero della fame per 32 prigionieri con passaporto giordano detenuti nelle carceri dell'entità sionista. Le loro condanne, che vanno dai 10 anni di ergastolo dai 10 anni all'ergastolo, sono state comminate in seguito ad azioni di resistenza. Tra gli scioperanti c'è Abdallah Barghouti, 41 anni, leader delle brigate Qassam, il braccio armato di Hamas, arrestato nel 2003 e condannato a 67 ergastoli, la sentenza più pesante mai comminata da un tribunale dell'occupazione. I detenuti richiedono il trasferimento nelle carceri giordane, che l'occupazione riveli dove si trovino i prigionieri giordani scomparsi, circa una ventina, e che vengano chiusi i cimiteri dei numeri, dove vengono seppelliti i corpi dei martiri che non hanno finito di scontare le condanne in vita. I detenuti denunciano anche che il sistema carcerario sta trascurando le loro condizioni di salute, subordinando l'accesso alle cure per le loro malattie pregresse all'interruzione dello sciopero della fame. Vietate le visite ai nonni in carcere. La corte di Lod ha definitivamente negato a una nipote di incontrare suo nonno. L'appello era stato inoltrato dall'associazione dei detenuti a Damir per conto di Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, desideroso di poter incontrare la nipotina Mayar, che ha appena compiuto 1 anno. Difatti, dal 2000 il sistema carcerario sionista permette le visite solo ai familiari di primo grado, che vengono individuati nei coniugi, nei figli, nei genitori, nei fratelli e nei nonni, ma senza considerare i nipoti. Ciò significa che un nonno può visitare il nipote in carcere, ma non l'inverso. L'associazione Adamir fa comunque notare che le visite familiari vengono negate a tutti i palestinesi maschi che hanno compiuto 16 anni, ufficialmente per motivi di sicurezza. Ahmad Sadat è stato arrestato nel 2002 dall'autorità palestinese, rapito dal carcere di Gerico nel 2006 e nel 2008 l'occupazione lo ha condannato a 30 anni per essere dirigente di un'organizzazione considerata illegale. Dal marzo 2009 ha subito 39 mesi di detenzione in isolamento. Thank you. Passiamo all'entità sionista, dove è vietato criticare l'esercito. La Knesset, Parlamento dell'entità sionista, ha approvato in prima lettura il disegno di legge che andrà a regolare il reato di calunnia nei confronti dell'esercito. Presentato da due parlamentari di destra e da un deputato laburista, la nuova legge permetterà alle forze armate di perseguire chiunque osi criticarne le pratiche. Il DDL è conosciuto anche come Jenin Jenin, per ricordare come gli ufficiali cercarono di impedire la proiezione dell'omonimo documentario che documentava le pratiche dell'esercito durante l'occupazione. Jaffa, trovate nuove prove dei massacri della Nakba. La Fondazione Al-Aqsa per la Cultura Islamica ha annunciato di aver trovato delle fosse comuni in un cimitero di Jaffa, meglio conosciuta come Jaffa. Le fosse contengono i resti dei palestinesi uccisi dalle milizie ebraiche nel 1948. A una prima analisi risultano scheletri di varie età. Proteste degli abitanti del Negev. Oltre 4.000 residenti arabi e beduini del Negev hanno manifestato oggi sotto la municipalità di Beersheva contro la legge conosciuta come Piano Prower, che prevede la deportazione forzata di 40.000 persone. Approvata ufficialmente come norma contro gli abusi edilizi, il piano prevede la demolizione dei villaggi non riconosciuti, molti dei quali esistevano da ben prima della nascita dello Stato ebraico. E passiamo agli esteri, alla Siria, dove peggiorano le condizioni dei palestinesi. Filippo Grandi, dirigente dell'Agenzia ONU per i profughi, ha dichiarato che il 70-80% dei profughi in Siria ha abbandonato i campi per fuggire in Libano, Giordania, Egitto ed altri paesi. Da una nota invece del gruppo d'azione per i palestinesi in Siria, risulta invece che le forze armate del regime di Bashar al-Assad e le milizie al loro seguito hanno ucciso oltre 1.350 profughi, la maggior parte in seguito ai violenti bombardamenti aerei o di mortaio. Viene invece dal ministro del lavoro dell'ANP l'aggiornamento sui prigionieri. Difatti, Ahmad Majdalani, in visita ufficiale in Siria, ha dichiarato che circa 2.000 palestinesi sono prigionieri del regime Batista, di cui circa 1.300 sono accusati di aver preso parte agli scontri. Prima della rivoluzione e del conflitto che ne è scaturito in Siria, vivevano 530.000 profughi registrati all'UNRWA, senza contare gli immigrati che non erano lì per motivi di profughi. E Italia, passiamo allo stivale, dove ci sono state manifestazioni diffuse contro gli europei. Sabato 8 giugno i gruppi italiani aderenti alla campagna BDS hanno svolto delle iniziative di sensibilizzazione contro lo svolgimento nell'entità sionista degli europei under 21. A Roma, le reti solidali hanno inscenato una partita di calcio a Piazza del Popolo, che è terminata con l'ammanettamento e l'arresto simbolico della squadra palestinese. E passiamo alle iniziative, alle due iniziative. Ostia da un calcio all'apartheid. Ostia per la Palestina e la scuola popolare Handala indicano una due giorni, il 15 e 16 giugno, contro chi vuole normalizzare i soprusi dell'occupazione militare sionista. Sabato, allo spazio occupato e autogestito di Piazza Gasparri 28, si inizierà alle 16 con una sessione di live painting, mentre alle 18 si proietterà il documentario Palestina per principianti. Domenica, al Parco Willy Ferrero, dalle 16, inizierà il torneo di calcetto contro l'apartheid. E invece 19 giugno, fuori Mazinga dall'università. Il 19 giugno l'Aula Magna della Sapienza ospiterà la quarta conferenza sul Cyber Warfare, organizzata dall'Università di Firenze e dalle più note aziende belliche italiane e internazionali. Tra le partecipanti anche la Maglan, società sionista di difesa e di informazione che si occupa dei controlli dei droni e della raccolta di informazioni tattiche. In contemporanea, la mattina, i collettivi universitari e solidali con la Palestina terranno un assedio sonoro al convegno al piazzale della Minerva. Quindi è finito il nostro GR, ora vi lasciamo a uno stacchetto musicale, vi facciamo sentire i Ministry of Dabki, un gruppo reggae di Ramallah, che ci cantano Bloody Ahla Blood. Questo è un live del settembre 2011 a Beit Anish, Ramallah. Il titolo significa Il mio è il paese più bello. Buon ascolto. يا مان يا وان طلعوا حالكم احلاكم طاطا يا مان ارفع ارفع يا احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا بلادي احلى بلا هني الضرة يلزم لنا من يخلف لنا جمال عبد الناصر يا أمتي من يدلنا على وحدتنا بهالزمن الغابر قوم يا شعبي انهض وناضل حاجي تعبي المقابر حتى بوحدتنا نرجع نبني والمجد العرب وغني أحلى بلا وغني أحلى مؤذن بالجامع وعلى البيت جرس الكنيسي عروبتي توحدي تنخلي الليلة سجالي تنخلي الليلة بيت أنيسي من موريتانيا للعراق هلمو يا رفاق الوحدة هي رحلتنا والراقة مظن نقطة انطلاق انتو معاي بلادي احلى بلادي الضاد على الجيد مجتمعين كفر كنا عقرة حيث طاهرتنا مصر يما نرفع صوتنا قدم الوقت أتى الحين شو عم بحكي عربي بعروقي جاريون كمان زكيون يخفقنا بلا قلبي هذه هي حربي هذا هو السلمي عشق لغتي وبحبك يا بنتي بلدي ضادون ضادان ضادن ضا ورسم عجيب لي ودربي وسط الضوضاء لأرضي لوطني يمين أنكم قسمي ويا لصدفتي أني أدعى بوداع بلادي أحلى وبلادي أحلى بلاد وبلادي وبلادي أحلى بلاد وبلادي رام الله وحيفا وعكا والبطة والليل هو الرملة يا بحيفا E rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Default. Questa è Radio Cufia, trasmissione aggiornamento analisi su dalla Palestina occupata. Ricordiamo, per interventi o domande, c'è il nostro account Skype radio.default o il nostro account Facebook Radio Default. E quindi passiamo all'attualità. Infatti, mutamenti politici in West Bank, governata da, ricordiamo, dall'autorità nazionale palestinese, quindi da una coalizione di Fatah, del partito Al-Fatah e qualche partito di sinistra, e è cambiato il presidente del Consiglio. Innanzitutto ricordiamoci che quella là è una specie di repubblica presidenziale, cioè un presidente che dovrebbe nominare un presidente, un primo ministro, un presidente del Consiglio, che dovrebbe avere la ovviamente la fiducia del Parlamento, di quello che ne rimane, visto che li arrestano tutti. E ormai 6 anni fa venne nominato un ministro a interim in piena crisi di divisione tra Hamas e Fatah, una crisi che portò anche degli scontri armati e una scissione che dura tuttora. Venne nominato un primo ministro provvisorio di nome Salam Fayyad, che doveva appunto rimanere in carica un mesetto, giusto il tempo di gestire tutta la transizione, e che invece è durato praticamente fino a 6 anni, finché non l'hanno sfiduciato ad aprile scorso. È rimasto anche là ad interim qualche mese, il tempo di nominare un nuovo primo ministro. Questo nuovo primo ministro è Rami Abdallah, che è stato nominato il 2 di giugno, ha poi fatto il giuramento col nuovo governo il 6, ed è una figura simile più o meno al precedente. A differenza di Salam Fayyad, Abdallah è membro di Fatah. Come Fayyad non aveva una precedente esperienza politica, o almeno non aveva una grande esperienza politica, Fayyad era un economista della Banca Mondiale, che difatti era stato richiesto proprio dagli Stati Uniti, mentre Abdallah è stato negli ultimi 15 anni il rettore dell'Università di Nablus. Lui è un linguista, si è laureato in Inghilterra in linguistica. L'unico incarico politico che ha avuto è stato nel 2002, quando è stato segretario del Comitato Centrale per le Elezioni. E quindi un nuovo governo, che non è nemmeno tanto nuovo, perché la lista dei ministri è più o meno la stessa, sono cambiati un paio di volti. Ad esempio il ministro che abbiamo nominato prima nel GR, il famoso ministro del lavoro, è rimasto al suo posto. E quindi uno direbbe: ma cos'è, soltanto un cambio di volto? Dicono una rimbeccata. Sarà anche, però, diciamo che ha suscitato più di qualche reazione negativa nella politica, in tutto l'arco politico palestinese. Da una parte ci sono ovviamente le forze politiche islamiche, soprattutto da Hamas, dal movimento islamico, che ovviamente non sono contenti di questo rimpasto, di questo semi-rimpasto, perché si attendeva fra un paio di mesi la creazione di un governo di unità nazionale che ponesse finalmente fine alla divisione fratricida tra Hamas e Fatah. E quindi c'è il portavoce proprio di Hamas, Sami Abu Zuhri, che afferma che il nuovo governo non rappresenta il popolo palestinese e deve essere considerato illegittimo perché non ha ricevuto la fiducia del Consiglio legislativo, cosa che non aveva ricevuto neanche il governo precedente, diciamo noi. E inoltre ciò è una violazione degli accordi del Cairo e di tutti gli accordi di riconciliazione. E questa è una visione che è anche condivisa da Hannunu, che è il portavoce del governo di Gaza, che ricordiamo essere legato ad Hamas. Ovviamente a Fatah su questa cosa ha risposto dicendo: ma come, è stato Hamas a chiedere di posporre la creazione del governo unità nazionale? E a ciò ha risposto Reshek, che è un membro dell'ufficio politico di Hamas, dicendo che negando questa affermazione, dicendo che è stata una scelta di Abbas, e ha anche paventato la minaccia di un taglio di fondi da parte delle agenzie internazionali, un taglio di fondi all'autorità palestinese in caso si raggiunga la riconciliazione, cosa che ad esempio avvenne nel 2006 quando andò al potere Hamas, democraticamente eletta. Voce un po' dissonante, sempre per quanto riguarda le forze islamiche, è Musa, che è un deputato di Hamas a Gaza, in cui dice che sì, è un problema per la riconciliazione, questa creazione di un nuovo governo, ma non si può dare tanta colpa a Fatah perché Hamas ha lo stesso genere di colpe. E infatti ricordiamo che Haniyeh, il primo ministro di Fatah che governa di fatto solo a Gaza, e di Hamas che governa di fatto solo a Gaza, è in carica anche lui dal 2006. Poi condanna dal Fronte Popolare e dal Fronte Democratico per quanto riguarda i partiti di sinistra, per cui anche loro affermano che questo nuovo governo non aiuta la riconciliazione, mentre c'è un'apertura degli USA che sono molto favorevoli, qualche malalingua dice anche che l'hanno nominato loro, questo Rami Hamdallah, e mentre fredda, cioè un cauto saluto arriva dall'entità sionista, dove il ministro della difesa afferma di considerare Hamdallah una persona pragmatica. E quindi si apre e si chiude là. Hamdallah ovviamente ha subito dichiarato che questo nuovo governo rimarrà in carica solo pochi mesi per fare poi spazio a un governo di unità nazionale, ma ci sono dei dubbi sia per il pregresso che abbiamo ricordato prima, Salam Fayyad, che doveva rimanere un mese, è rimasto 6 anni, sia perché sono 2-3 anni che Hamas e Fatah annunciano riconciliazioni e prossimi governi di unità nazionale che non arrivano mai. Diciamo che una delle prime dichiarazioni che ha fatto il nuovo primo ministro è stato quello di volere un cronoprogramma per la fine dell'occupazione della West Bank e la nascita di questo cosiddetto Stato di Palestina nei territori del 1967, che però rimane una dichiarazione un po' fine a se stessa, perché è la stessa cosa che diceva il suo predecessore e che continua a dire anche il presidente dell'autorità palestinese Abbas, che però non vede un riscontro dalla controparte. Infatti Netanyahu ha ricordato l'altro giorno in una dichiarazione che per lui tutte le operazioni di colonizzazione procedono e che è un'assurdità ciò che propongono i palestinesi di dire congeliamo le colonie e andiamo a trattare la pace. Si dice semplicemente aspettiamo, cominciamo a chiacchierare, noi intanto facciamo i fatti sul campo e poi quando arriveremo a una soluzione, se ci sarà il blocco delle colonie nella soluzione che troveremo insieme, allora le bloccheremo. E quindi questo è la questione colonie, pesa come un macigno, e questo nuovo governo non sembra avere alcuna forza di poter mettere in campo nessuna forza per fermare i fatti che vengono creati sul campo. E secondo me, poi magari anche gli altri compagni in redazione aggiungeranno qualcosa, c'è la questione della legittimità democratica. Cioè, viene nominato un nuovo governo, cioè un anno fa, ormai si sono, o sei mesi fa, si sono aperti i registri elettorali in cui la gente si può andare a iscrivere per andare a votare. Fatto che è stato accolto da tutte le organizzazioni nazionali e internazionali come un fatto positivo, in quanto le elezioni sono un legittimo esercizio democratico che può permettere alla popolazione palestinese di scegliere la propria leadership. D'altronde era anche quello che ci ricordava Khalil Shaheen, il direttore del Centro Palestinese dei Diritti Umani, quando l'abbiamo intervistato a febbraio. Perché in Palestina non vengono votati, eletti né parlamentari né i presidenti, i presidenti sono elezioni diretta, ormai dal 2005 per quanto riguarda il presidente, 2006 per quanto riguarda il Parlamento, o ciò che ne resta appunto, e quindi viene nominato per l'ennesima volta un primo ministro da un presidente che ha meno legittimità democratica del Parlamento a cui dovrebbe sottoporre la questione, ma anche quel Parlamento è totalmente sfiduciato perché appunto ha superato ormai di 3 anni il suo mandato costituzionale. Su questo è stato tirato in ballo la questione delle elezioni locali. Soprattutto da parte dell'autorità palestinese si è detto che a ottobre scorso le elezioni ci sono state, erano le elezioni municipali, si sono dimenticati di aggiungere che però erano state boicottate da Hamas e dal Jihad Islamico, che per quanto non possano piacerci a noi in quanto laici e secolari, non siamo, sono comunque una parte importante della vita politica palestinese. E a parte il Jihad Islamico che boicotta le elezioni ideologicamente, poi ci torneremo sulla questione, ma Hamas, che si è sempre dimostrata disponibile ad andare alle elezioni, affermava che quello era erano delle elezioni che non avevano senso, e quindi la forza maggioritaria sia a Gaza che in Cisgiordania ha boicottato le elezioni. Al-Fatah praticamente si è presentata da sola, è riuscita anche a perdere le elezioni presentandosi da sola, robe da Partito Democratico nostrano. Infatti vinse in 6 delle 11 città principali, e tra cui perse i 3 centri proprio principali, che erano Ramallah, che è anche la sede del governo. Qualcuno prima della trasmissione diceva che il presidente dell'ANP è il sindaco di Ramallah, ormai appunto nemmeno quello. Nablus e Jenin vennero perse, ad esempio Betlemme ed Hebron vennero vinte soltanto per un soffio, perché si erano presentati candidati indipendenti fuoriusciti dal Fatah o sindaci provenienti dalla sinistra, che appunto riuscirono a scippare il risultato elettorale a Fatah, che appunto, come un perfetto Partito Democratico italiano, ha avuto la conferma di non essere né maggioritaria né rappresentativa, e quindi di non poter prendersi decisioni così importanti come la nomina di un primo ministro. C'è anche da considerare la questione economica. Nelle intenzioni, questo governo dovrebbe appunto dovrebbe seguire le gestioni correnti, mentre gli sherpa di Hamas, Fatah, del Jihad, del fronte, delle varie fazioni palestinesi portano avanti i protocolli di riconciliazione. Solo che c'è il problema appunto della questione economica. Come potrà questo governo fare in modo che l'economia palestinese, in cui unico attivo della produzione industriale, notizia della settimana scorsa, è l'estrazione mineraria delle cave di pietra, come può cercare di fare in modo che l'economia palestinese, in caso di riconciliazione, non venga soffocata dai rubinetti che verranno sicuramente chiusi dalle organizzazioni internazionali. Ricordiamoci, abbiamo letto prima nel GR che è arrivato un bel prestito della Banca Mondiale di 55 milioni, in totale dal 94 800 milioni sono arrivati dalla Banca Mondiale, mentre sempre dal 94 un miliardo di dollari è arrivato dalle varie ONG, che sono fondamentali, faremo anche su questo una trasmissione, su come le ONG hanno modificato il modo di vivere, il sistema economico palestinese e di come anche lo modifica la colonizzazione che viene portata avanti. E quindi il nuovo primo ministro non ha parlato appunto dell'economia. E quindi, visto che i precedenti ministri sono quelli che sono in carica oggi, dovremmo pensare che si porti avanti un disegno economico neoliberista che punta appunto sul terziario, sui servizi, ma non sui servizi produttivi, ma sulle varie ONG che lucrano sulla questione palestinese per dare qualche stipendio ai laureati in scienze politiche in patria, che così possono trovare lavoro, e qualche stipendiuccio a qualche palestinese, o continuare a far vivere gli altri palestinesi di sussidi. E poi quella che è la politica israeliana, il fine ultimo della politica israeliana. Per il governo israeliano il modello di Stato palestinese è quello che è l'attuale cittadina di Gaza. Loro continuano imperterriti con una politica di colonizzazione che non è altro che rubare terre ai palestinesi e soprattutto isolare tra loro le singole città palestinesi. I palestinesi non hanno un governo rappresentativo, un parlamento che funziona, non hanno un'istituzione in grado di andare a parlare con il governo israeliano rappresentando il popolo palestinese e non rappresentando una qualche lobby, spesso neanche palestinese, ma addirittura lobby esterne al popolo palestinese. E quindi si perde tempo dal punto di vista palestinese, si guadagna tempo, terra ed economia e acqua dal punto di vista israeliano. È ovvio che il governo israeliano punta a non trattare, a non aprire tavolini di trattative, nonostante le pressioni americane, eccetera, non vogliono avere nessun tipo di trattative, perché non hanno nulla da perdere dalla mancanza di trattative, perché nello status in cui siamo adesso gli unici che ci stanno rimettendo è il popolo palestinese. Il loro modello di Stato palestinese è varie 4, 5, 6 città isolate, circondate, sotto embargo, esattamente come Gaza, che campano non di una propria economia ma del sussidio internazionale dell'ONG, dei paesi arabi compiacenti, dei paesi occidentali compiacenti, che vivono così mentre tutto il resto del territorio palestinese lo amministrano, lo occupano, lo gestiscono loro. Dicevamo nel TG che in palestinesi è rimasto l'8% del territorio, ma non dobbiamo pensare che è un 8% di territorio continuo. Una regione, uno Stato. Si tratta di macchie di Bantustan, esattamente sul modello di quello che era la politica sudafricana. Non a caso Israele era l'unico alleato del Sudafrica finché c'è stato il Sudafrica razzista. Siamo sul modello delle riserve indiane. Questo è il modello di Stato palestinese che sta prefiggendo Israele. E impedire ai palestinesi di avere una rappresentanza unica, unitaria, forte, vera, perché nessuna delle persone che noi abbiamo citato rappresenta oggi il popolo palestinese. Ne rappresentano tutte una parte. Attualmente noi abbiamo a Gaza il governo di Hamas, in Cisgiordania il governo di Fatah. Nessuno dei due rappresenta il popolo palestinese e soprattutto nessuno dei due può andare al tavolo delle trattative con Israele dicendo di rappresentare il popolo palestinese. Non possono farlo neanche se si uniscono, perché oggi la realtà politica palestinese è come, diciamo, simile a quella dell'Italia, dove noi abbiamo un governo di larghe intese dei due principali partiti italiani, che poi, se andiamo a vedere sul territorio, non rappresentano da soli neanche il 30% degli italiani, no? È la stessa cosa purtroppo è in Palestina. Quindi il continuare a impedire al popolo palestinese di avere una sua rappresentanza politica che possa andare a trattare con Israele fa soltanto il gioco di Israele, che in mancanza di trattative rimanda e continua a costruire colonie, continua a isolare i palestinesi, continua a costruire muri, continua a costruire riserve indiane dove richiudere i palestinesi e arrivare a uno status quo per cui noi avremo 5 sindaci palestinesi di piccole città-stato, immaginate una San Marino, isolati all'interno del territorio sionista, senza nessuna possibilità di avere un'economia, di avere una politica, di avere nulla, se non quello di campare dell'elemosina che gli stati occidentali gli forniranno, ricattandoli: se vuoi soldi fai quello che dico io, se vuoi soldi nomini chi dico io, se vuoi soldi questo deve essere il ministro, esattamente come sta facendo in Europa la CEI con la Grecia o tramite lo spread con l'Italia. Questo è quello che è l'attuale modello politico che si vuole imporre alla Palestina, e questo nuovo governo purtroppo non è altro che perfettamente allineato all'interno di questa visione

to go to stand up again on our feet. I'm calling for your support. Sfumiamo Shadia Mansour con We Have to Change, dobbiamo cambiare, che ha cantato con il rapper Omar Offendum, credo di origini arabo-maghrebine, mascherchine. Torniamo qua, siamo Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata. Ricordiamo che per domande, interventi, suppliche, imprecazioni e insulti c'è il nostro contatto Skype radio.default o la nostra pagina Facebook Radio Default. E quindi ritorniamo sulla questione del nuovo governo. Che abbiamo visto che è stato nominato, cioè ha giurato il 6 di giugno. Abbiamo già capito tutti insieme che potrà cambiare poco delle questioni che oggi sono scottanti e che sono dirimenti per dare un futuro al popolo palestinese. E quindi c'è un'altra questione che si viene a porre, quello dell'infrastruttura su cui si poggia, insomma, il governo ora di Hamdallah, l'autorità nazionale palestinese, il consiglio legislativo, il parlamento, eccetera, eccetera, che è la questione di Oslo. Tutti questi vari organi sono stati creati dopo gli accordi cosiddetti di pace, che poi hanno visto una pace solo unilaterale da parte palestinese e mai da parte sionista. E diciamo prima che il Jihad Islamico ha boicottato le elezioni. Il Jihad Islamico lo fa per un motivo ideologico, cioè gli accordi di Oslo, ciò che esce all'interno, tutto ciò che può uscire dalle istituzioni di Oslo, non possono portare bene ai palestinesi e alla causa palestinese, perché nascono con dei paletti che non lo rendono possibile. Ricordiamo prima il GR, che era stato annunciato l'aumento dell'1% dell'IVA. L'aumento dell'1% è dettato da i protocolli di Parigi. I protocolli di Parigi erano gli accordi economici che sono seguiti ad Oslo e che, tra le varie cose, imponevano il fatto che il differenziale dell'IVA tra Israele e Palestina doveva essere massimo del 2%. Quindi Israele può cambiare la propria percentuale di IVA a piacimento, e i palestinesi devono temperare, devono rimanere sempre nel 2%. Un po' come era il nostro sistema monetario europeo negli anni 90, dove tu dovevi mantenere il cambio della lira rispetto alle altre monete in una banda che oscillava e da quella non potevi uscire. E questo è anche uno strumento di pressione da parte israeliana, perché magari l'aumento dell'IVA dell'1% in Israele ha ovviamente un peso, però può essere più gestibile rispetto a una popolazione come quella palestinese, dove vi sono più bassi livelli di reddito e anche e quindi un aumento dell'1% può portare sul lastrico decine, centinaia e migliaia di famiglie. E c'è anche un'altra questione che riguarda le infrastrutture dell'OLP, che pigliano la metà e soltanto la metà dei palestinesi. Se tu voti il Parlamento, questo famoso Consiglio Legislativo palestinese, che uno non si sa nemmeno perché dovrebbe votarlo, visto che poi finiscono tutti in galera i parlamentari, viene votato da chi abita in West Bank e a Gaza. Quindi in sostanza più o meno 5 milioni di persone tra indigeni e profughi, solo che la popolazione palestinese è composta da 11 milioni di persone. Tutti gli altri o sono profughi in Libano, in Siria, in Egitto e via dicendo, oppure sono immigrati, sono comunque in diaspora nei paesi europei, in Sud America o in altri paesi arabi. E quindi si ritrovano a essere persone che non hanno alcun tipo di rappresentanza, cioè il signor Abbas o il signor Abdallah o il signor Fayyad prima di lui, ma anche il signor Haniyeh di Hamas, quando parlano a nome di tutti i palestinesi, rappresentandone soltanto quelli che l'hanno votati, della metà che possono votare. E ciò pone un'ipoteca, perché sono diverse le condizioni di vita in un campo profughi in Libano rispetto che in West Bank, sono diverse le motivazioni e il modo di fare politica di queste persone, sono diverse anche le esigenze, magari rispetto a un cittadino di un campo profughi in West Bank, a cui come movimento intermedio, come tappa intermedia può andare bene uno stato di Palestina in West Bank, dice ok, vivo nel campo profughi, poi il mio diritto al ritorno ci penso in un secondo momento, ma intanto mi ritengo sicure almeno queste frontiere, mentre magari un palestinese che vive in Libano, che può fare solo i lavori, può fare solo il manovale o l'idraulico, anche se è un dottore, che non può uscire dal campo profughi, o magari un profugo palestinese in Siria, che ora si trova anche sotto le bombe e sotto i colpi di mitra delle opposte fazioni, ovviamente hanno un interesse a tornare al loro paese. E questo però non trova nessun riscontro nella loro leadership politica che li rappresenta senza però essere mai stata scelta da quella fetta di popolazione. Hai visto il voto dei palestinesi all'estero, insomma. Noi facciamo votare tutti, abbiamo avuto il buon Tremaglia, pace all'immortacci sua, e invece la... che gli italiani che sono all'estero è gente che non è stata cacciata con le armi dall'Italia, ma è volontariamente emigrata all'estero, e che in percentuale sono una quantità infinitamente più piccola della popolazione italiana rispetto a quello che è il fenomeno palestinese. Qui stiamo parlando di che viene negato il diritto a più della metà della popolazione, è una cosa molto più seria, molto più grave, molto più importante. Popolazione che è stata allontanata dalla sua patria con le armi, non che sia andata a cercare un miglior futuro all'estero, ma che è stata proprio fisicamente cacciata dalla sua terra. Si tratta di due cose molto diverse, insomma, si capisce ovvio. Sì, tra l'altro tra gli italiani all'estero votano magari quelli che stanno in Argentina da tre o quattro generazioni, che quindi e quindi vabbè, quello là è roba di magheggi elettorali, credo che serva giusto a quello e a raccattare un po' di soldi in giro per i vari continenti, per i vari partiti. E però in teoria però c'è l'organizzazione, quella che secondo l'ONU dovrebbe essere il solo e legittimo rappresentante del popolo palestinese, che è l'organizzazione della liberazione della Palestina, l'OLP, che ha una sua strutturazione ben definita, con un comitato esecutivo, una specie di consiglio legislativo non votato, però nominato dalle varie fazioni che ne fanno parte, e però l'OLP dopo Oslo è andata un po' a morire, cioè è andata quasi totalmente a morire, si è risentita soltanto quando Abbas è andato all'ONU a chiedere lo Stato di Palestina, e là non ci è andato come presidente dell'autorità nazionale, ma ci è andato come capo dell'OLP, ma là si è visto e là si è smesso di sentire. E oggi si stanno invece cercando, cioè l'OLP nel periodo del suo maggior fulgore, per quanto non fosse un organismo democraticamente eletto, aveva maggiore rappresentatività rispetto agli organi e istituzioni palestinesi attuali. Bene o male, un fronte popolare, un fronte democratico, Fatah, non avevano un numero di rappresentanti messi in base al numero di voti presi, ma erano comunque organizzazioni radicate, più o meno democratiche al loro interno, ma che erano radicate nelle varie fasce, nelle vari segmenti palestinesi anche all'estero, e quindi anche quello trovava una loro rappresentazione, anche se poi di fatto l'OLP era sempre controllato da Arafat. E quindi però La struttura c'è ed è non viene utilizzata. Tant'è che ora nei colloqui di riunificazione si parla proprio di riforma dell'OLP su base democratica e con l'elezione di questo consiglio legislativo, a cui ad esempio l'organizzazione che diciamo prima, il Jihad Islamico, dice di voler partecipare. E sull'OLP poi ci sarebbe molto da dire sul passato storico dell'OLP, sulle sue inefficienze, sulla necessità di organizzazioni della resistenza che hanno avuto di uscirne in maniera più o meno strumentale in passato per portare avanti la resistenza, o di crearsi delle frazioni, delle scissioni interne concordate per fare ad esempio, ne so, i famosi dirottamenti aerei. E sull'OLP consigliamo uno scritto che abbiamo tradotto di uno studioso, un ricercatore, Osama Khalil, che si trova su castelliperlapalestina.noblogs.org, in cui si parla l'Oslo, che si intitola Oslo ha deluso i palestinesi e ricominciamo da basi nuove. È un testo, almeno secondo me, non sempre condivisibile, però lascia degli spunti interessanti sia su come si deve ristrutturare l'OLP, sia quali sono stati i suoi problemi nel passato, sia per il problema che anche se si facesse una bellissima riforma dell'OLP democraticissima, è il problema nodale. Secondo me manca un piano di resistenza nazionale, un progetto nazionale più o meno unificante all'interno della Palestina occupata e dei campi profughi. E se qualcuno, gli altri redattori non vogliono aggiungere nulla, noi prima di farvi arrivare all'analisi, alla nostra lezione di teologia estrema, vi lasciamo con un piccolo frammento musicale, vi lasciamo con Fermin Muguruza, il famoso cantante ska basco che ha suonato l'altro giorno all'Agrobax in sostegno di Lander, e un concerto che ha fatto nel 2007 insieme ai Dem, i rapper palestinesi che già tante volte abbiamo sentito. E quindi sentiamoci Yallah, Yallah Ramallah. Yallah, Yallah Ramallah. Yallah, Yallah. Yalla, yalla, Ramallah. Buonasera a tutti, riprendiamo la nostra analisi della storia antica della Palestina. Dicevamo scherzando che sarebbe stata una puntata teologica, perché nell'ultima puntata eravamo arrivati all'occupazione romana della Palestina. Occupazione romana della Palestina che è molto lunga, si conclude nel 395 dopo Cristo, è cominciata nel 39 avanti Cristo, quindi immaginate un periodo molto lungo. La Palestina entra nel mondo globalizzato romano, e quello che succede durante l'occupazione romana della Palestina, di importante per quello che sarà la storia futura della Palestina, soprattutto per quella che sarà la storia futura del popolo ebraico, è appunto la nascita del cristianesimo, che tramite l'impero romano si diffonderà in tutto il mondo. Vediamo prima però di capire in quale realtà di tipo religioso-politico nasce se si sviluppa il cristianesimo e che conseguenze avrà questo prima sull'impero romano e poi su tutto il resto del mondo in seguito. Abbiamo visto in precedenza appunto che le tribù ebraiche nomadi che si muovevano nel Medio Oriente e in tutta quella poi con l'impero romano, già con la conquista di Alessandro il Grande, che aveva di fatto globalizzato la Palestina, si muovevano in tutta quella che era l'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, che tipo di caratterizzazione avevano. Oggi lo vedremo con maggior dettaglio, cercheremo di capirlo meglio. Dicevamo, erano tribù a struttura fortemente patriarcale e con una gestione decisamente maschile e maschilista del potere. Questo noi lo possiamo verificare proprio analizzando quella che è la struttura della religione di queste tribù, appunto la religione ebraica, e attraverso di come loro narrano la loro storia, partendo dal principio. Noi abbiamo contrariamente a quello che era le religioni di tipo naturale, per cui nelle religioni di tipo naturale noi abbiamo la donna che è portatrice di vita, la donna che è creatrice di vita. Sappiamo che gli Etruschi, per esempio, avevano una struttura matriarcale. Abbiamo visto che Ebla, l'importante città semitica scoperta in Siria, c'era una struttura di tipo matriarcale. Al contrario, le tribù ebraiche, proprio per la loro struttura di essere dei clan di tipo patriarcale, che discendevano da un patriarca, avevano un tipo di religione contro natura, potremmo dire, perché abbiamo un Dio creatore che è maschio, che crea un maschio, Adamo, dalla cui costola viene creata la donna. Quindi abbiamo una figura del tutto estranea alla natura, che è quella dell'uomo creatore. E questa cosa è presente sistematicamente in tutta quella che è la cultura e la religione ebraica antica. Parliamo dell'Antico Testamento di queste tribù. Non a caso Eva ha due figli, tutti e due maschi, Adamo Caino e Abele. Sappiamo poi che ne sopravviverà uno solo, e noi siamo tutti discendenti a nostra volta di Caino, che è sempre un uomo, quindi non una donna. Questo perché queste tribù, appunto, di tipo patriarcale, erano di fatto dei clan familiari rafforzati nei loro legami di sangue dalla legge di non dover mischiare il sangue, quindi si cercava di mantenere all'interno di questi clan anche la procreazione. E la Bibbia ci parla di patriarchi che campano 100 anni, 120 anni, proprio per far inculcare questa idea del maschio creatore del clan, che sia dal punto di vista proprio genetico, nel senso di discendenza diretta, sia dal punto di vista politico e amministrativo. Per cui noi abbiamo una situazione, appunto, di una religione fortemente maschilista, che nega alla donna anche il suo ruolo naturale, che è quello di portatrice di vita. Non a caso nei comandamenti noi abbiamo la donna che è del tutto equiparata a un bene dell'uomo, no? Non desiderare la cosa degli altri e non desiderare la donna degli altri. Non è un comandamento del tipo tra moglie e marito non mettere il dito, non desiderare il partner degli altri, non sfasciare la famiglia. Proprio la donna è considerata una proprietà dell'uomo, e la religione gli nega appunto la sua caratteristica principale, che è quella in natura di essere portatrice di vita, perché ci narra di una creazione tutta maschile. E ripeto, questo è un fenomeno abbastanza raro, abbastanza particolare, abbastanza strano in quelle che sono tutte le altre religioni sia del Medio Oriente che del bacino appunto del Mediterraneo, che è caratteristica propria di tribù nomadi, di clan nomadi, che comandate da un patriarca hanno bisogno di una disciplina ferrea fondamentale, fortissima, per rimanere uniti nel loro pellegrinare e spostarsi da quelli che erano tutti i vari territori della zona. Per cui c'era questa necessità forte, fortissima, di avere la rappresentazione del potere che c'era in terra, quindi di un maschio creatore del clan, unico dio della tribù, con una rappresentanza celeste nella religione, nel avere un unico dio, anche questo fortemente caratterizzato di tipo maschile. Guardate bene che anticamente, questo, pur essendo la religione ebraica una religione monoteista, il comandamento base, quello io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me, non è un comandamento che non esiste altro Dio al di fuori di me. Non si nega l'esistenza di altri dei, di altri o di altre religioni. Si cerca, tramite l'accentrazione di un unico Dio, come era quello di un unico patriarca, semplicemente di mantenere unito il gruppo, di mantenere unita la tribù, di mantenere unita sia dal punto di vista, abbiamo visto, proprio del legame del sangue, sia dal punto di vista religioso, queste tribù. La Bibbia ci parla di 12 tribù, ognuna con il loro capo famiglia, che pur se facevano riferimento in cielo a un unico Dio, avevano un Dio diverso in terra, rappresentato appunto dal patriarca. E è talmente forte, talmente maschilista la struttura politico-religiosa, perché qui parliamo di una struttura politico-religiosa di queste tribù, che è un'altra cosa che le caratterizza e che non è diffusa all'interno di quelle che erano le altre religioni appunto dell'epoca, e sia dal punto di vista appunto dell'epoca sia dal punto di vista geografico, è quella dell'omofobia. Noi sappiamo che nell'antica Grecia l'omosessualità era considerata assolutamente normale, così era negli Etruschi, così era nei Fenici, così era negli Ittiti. Gli stessi Romani non lo consideravano un pregio, ma non discriminavano gli omosessuali. La Bibbia invece ci parla della distruzione da parte di Dio di Sodoma e Gomorra, senza sopravvissuti, lo sterminio totale della città di Sodoma e Gomorra, che rappresentavano appunto l'omosessualità maschile e femminile. Questo sempre perché all'interno di questo tipo di tribù, dove la procreazione, il numero, faceva parte della forza, l'omosessualità, che è considerata quanto di più lontano c'è dalla procreazione, era considerata un danno per la tribù, e quindi veniva, dal punto di vista religioso, politico e culturale, condannata e combattuta. Questo lo diciamo non perché ci fa piacere, perché anche per rispondere in parte a Saviano, che dice che Israele è nel Medio Oriente l'unico paese tollerante con i gay. In realtà l'omofobia nella cultura dell'Europa, del Mediterraneo, arriva solo tramite il cristianesimo, che lo prende a sua volta dall'ebraismo su cui si fonda. Quindi questo tipo di struttura politico-religiosa unica nel Medio Oriente, così fortemente accentatrice, viene captata dall'Impero Romano attraverso il cristianesimo, che in realtà è il cristianesimo, abbiamo visto, essere un'eresia dell'ebraismo, una religione che, seppur basa le sue radici sull'ebraismo, se ne distacca in maniera fondamentale. Voi pensate alla differenza tra occhio per occhio, dente per dente e porgi l'altra guancia. Fanno parte della stessa religione, ma esprimono due concetti estremamente agli opposti. Il cristianesimo in realtà è una forte rivoluzione della religione ebraica, ne stravolge fondamentalmente i principi, ma viene captato dall'Impero Romano, che lo fa suo, perché l'Impero Romano, come avevamo detto in precedenza, ha l'esigenza di giustificare l'imperatore. Roma passa dalla Repubblica, in cui ci sono molti senatori, e quindi che ha che religiosamente potremmo paragonare ad un politeismo, ha un unico imperatore, e l'imperatore ha tutto l'interesse anch'egli a fare la stessa operazione di tipo politico-religioso che facevano i patriarchi, e far vedere che anche in cielo esiste un unico Dio che comanda su tutti, che non c'ha pietà, e unico detentore del potere e della e della cultura, e fa sì, appunto, l'impero romano trasforma il cristianesimo in religione di Stato. Dice questo: che ce ne frega a noi con la storia della Palestina. Questo è importante capirlo, perché nel momento in cui la Chiesa cattolica apostolica romana diventa romana, quindi l'impero romano diventa il padrone della Chiesa cattolica, del cristianesimo, il cristianesimo la sua sede non la elegge a Nazareth, visto che Gesù era chiamato il Nazareno, ma la elegge a Roma, dove c'era la sede dell'impero romano, e diventa funzionale all'impero romano, alla struttura imperiale dell'impero romano. L'impero romano plagerà il cristianesimo a sua immagine e somiglianza, e viceversa, e tramite prenderà dal cristianesimo non quello che era il suo aspetto innovativo, il suo aspetto rivoluzionario, il porgi l'altra guancia, l'ama al prossimo tuo come te stesso, ma prenderà tutto quello che è che il cristianesimo si porta dietro dal Vecchio Testamento, perché è funzionale alla creazione dell'impero romano, soprattutto è funzionale all'impero, e soprattutto il tipo di monoteismo che il cristianesimo rappresenterà dal Medioevo in poi non è quello originario, appunto, di non avrai altro Dio al di fuori di me, ma diventa quello di come non avrai un altro imperatore, perché io sono l'unico imperatore, non avrai un altro Dio semplicemente perché non esistono altri dei, tutti gli altri dei sono falsi, tutti gli altri dei sono fasulli, ne esiste uno solo, io te lo impongo con le armi, con la pulizia etnica, con la distruzione sistematica di tutto ciò che questo non è, e quindi avremmo l'impero romano portatore di una forma aberrante del cristianesimo, che è quella che arriva a noi fino a oggi, che si impone come religione di Stato per imporre quella forma di Stato e imporre quel tipo di mentalità politica e religiosa. Quindi avremo questa fusione di ideale politico in terra e religioso in cielo, che è quello che farà l'impero romano, esportando il cristianesimo con le armi, esportando il cristianesimo con gli eserciti, e arrivando poi a una situazione per cui da una parte l'impero romano capta il cristianesimo e fa diventare il cristianesimo religione di Stato, e poi nel Medioevo succederà esattamente il contrario, il Papa diventerà lui l'imperatore, avremo prima l'imperatore che diventa Papa e plasma la religione a sua immagine e somiglianza, e poi nel Medioevo, il passo successivo, il Papa che diventa imperatore e governa la terra a sua immagine e somiglianza. Stiamo andando verso lo stacco musicale, riprenderemo poi dopo ad analizzare in particolare questo che cosa ha comportato nella storia del popolo ebraico e della Palestina. Sì, vi lasciamo sempre con i Dem, con Warde, Fiori. يا اسمع يا يا صوت غريب من الايقاع هلا طالع صوت غريب كل دينين هلا مازع صوت اللي بيخلي الاطرش يكون سامع هذا سامح بعمله مش مختار بارع اول طريقي كانت هيومن بيت باكس بعد اخذت الالم كتبت جمل طلع لي نص قافي على قافي خلقت معنى بالاخص على شعبي على حالي ومن يومتها يا ورده سامح عص اليوم انا من مين فاقد وابوها شبابي داموا سمح من غير كبريته ولعوها مرادة بالهيب هوب زم ما فيش دواء لا هذا اسمي ورد اللي بالسماح انا ولا اي سايد ولا ويست سايد ولا وصاب انا ميم عربي كلمه واحده مرحب طيب بديش اكتر زياد يا ورد فلسفه سامح زكوت ساج اي كي اي اروشه ورد الكل يسمع من احنا ورد اجينا بلغه دمنا ورد لكل بدا يسالنا ألف لام لام دال كل اللي فيكم سأل مين ميم ميم أنا كريم أنا إلى منجد شوف صفحاتي حسن بروجيم كل أجي فوت يلعب معنا حروف حروف حسسنا ربطنا إيديه حطينا ضد أخطبوط لا كمان تامر قطع معاه قالب كسر سوري اللي ما حنت معاه ما حد يوقف بالي غير لي بالي بالمرايا أنا لساني دايما حامي على حفلاتي شو طفايا طف النيران خف الدخان هلا ضلت جعلة وحدة مرحبا أنا اسمي التام مع جيل قديم هلا أجا جيل جديد تلميذ بالمدرسة وأستاذ على البيت جميل يلا قواعد للراب أنا الفاعل زعمت لها إعراب بالجغرافيا تعلمت الرب بدا من علمنا بيولوجيا ورثني إن الرب يجري بدمنا بعمل حساب بدروس مش بالمايكون رن الشرف يلا جينا بلو هيفن وقت لكل بده يسالنا الرب شامعنا الرب شامعنا وقت الكل يسمع من احنا وقت جينا بلو هيفن وقت لكل بده يسالنا الرب شامعنا الرب شامعنا انا بدي احكي كيف كل اشي بدأ قبل ست سنين تامر طلع البوم بلغة الانجليز وقتها انا كنت اسمع موسيقى معروفة بالكلام السريع حسيتها عشان فيش فيها تصنيف فيوم اتصلت لتامر قلت له اسمع هيك هيك كلنا بنفس الحب هاي نكتب اللي بيشوفه العينين فهو قال لي مرحبا بك بابنا هو بابك فدخلت بابه كنت مستحي ايش ورا مالك لا ولا اشي مرة خدنا بعض سهيل تامر انا معنا قلبي الدام نبض انا متذكر انه سهيل اول يتهربط بس بعدين راسي براسه خبط فطلعنا من إرهابي مهما كان رتتات مع بعض طلعنا طلعات انزلنا نزلات بس اليوم كلنا على ألبوم اسمه إهداء قلت اليوم كلنا على ألبوم اسمه إهداء وقت الكل يسمع من إحنا وقت جينا بلو هيفن وقت لكل بده يسألنا الرب شامعنا الرب شامعنا وقت الكل يسمع من إحنا وقت جينا بلو هيفن وقت لكل بده يسألنا جميل يا الرب العربي الرب العربي على الخارطة والرب دا من عنا ايش رجع الموسيقى زلمة خليني اغني رجع البيت نزل الافكت خلينا نحكي زي العالم اسمع ايش معي ليش لا ايش يعني عشاني Sì, riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato. Abbiamo visto come questa forma imperiale di cristianesimo, diventando religione ufficiale dell'Impero Romano, venga di fatto imposta con la forza a tutti quelli che sono i popoli soggetti al dominio dell'Impero Romano. Quando parliamo di imposizione di fatto con la forza, parliamo proprio della distruzione sistematica di tutte quelle che sono le precedenti religioni, per cui tutte le festività pagane diventano festività cristiane, tutti i tempi pagani diventano chiese cristiane e soprattutto la lotta più dura, più forte che fanno il cristianesimo nei confronti del paganesimo è appunto contro la forma naturale delle religioni precedenti, per cui nelle campagne, nei villaggi pagani erano fortemente diffuse forme di paganismo che erano strettamente legati a quelle che erano i cicli della natura, i cicli del raccolto, i cicli della transumanza degli animali e tutte quante più o meno facevano riferimento a un Gaia, un pianeta Terra di tipo femminile, a una dea madre in quanto che è creatrice, portatrice di vita in quanto donna, e questo è estremamente contrastante con quello che era, appunto, abbiamo visto prima, la struttura della religione ebraica e soprattutto la struttura della religione politica che l'Impero Romano vuole dare. Si arriva a negare questa forma della donna, appunto, come portatrice di vita, come creatrice della vita, negando una funzione femminile nella nascita di Gesù Cristo. Noi sappiamo che Gesù è figlio di Dio, ma nasce da una donna vergine, si nega appunto con la verginità della Madonna alla Madonna la sua funzione di creatrice della vita dello stesso Gesù in quanto donna, in quanto appunto è semplicemente un utero in affitto di un Dio creatore che la usa niente di più e niente di meno che come uno strumento per mettere al mondo suo figlio. Quindi il cristianesimo si impone violentemente e forzatamente attraverso l'Impero Romano su tutte le popolazioni su cui hanno dominio l'Impero Romano, si fa una vera e propria appunto pulizia etnica e distruzione sistematica di quelle che erano le religioni precedenti, appunto le festività pagane che erano appunto legate ai cicli della natura, al raccolto, al solstizio d'estate, al solstizio d'inverno, diventano festività della religione cattolica, forzando le date della nascita di Cristo, forzando le date della Pasqua ebraica, forzando tutte quelle che erano il dettato della religione cristiana. Noi sappiamo che i Vangeli che noi leggiamo oggi a basamento della religione cristiana non sono gli unici Vangeli esistenti, sono Vangeli scritti da evangelisti che hanno vissuto anni e anni dopo la morte di Gesù Cristo, selezionati appositamente, scelti dai consigli vaticani, riuniti già all'epoca a Roma o a Costantinopoli a secondo delle esigenze dell'impero romano, e appunto adottati perché del tutto funzionali a quello che era l'interesse dell'impero romano di diffondere questa idea di religione, questa idea di Stato, e per cui questa idea di appunto questa struttura politico-religiosa. E abbiamo visto appunto che lo si fa andando proprio ad occupare tutti gli spazi, tutte le cose precedentemente esistenti nelle religioni pagane, per cui alla Dea Madre viene sostituita la figura della Madonna, i templi dedicati a Diana Cacciatrice, alla Dea Madre diventano templi della Madonna, le Madonne Nere non sono altro che una trasformazione in maniera cristiana di quelle che erano appunto templi della Dea Madre. I santi vanno di fatto a sostituire la pluralità di dei a cui queste popolazioni erano abituate, per cui si passa dal dio dell'acqua al santo protettore dell'acqua. Si impone proprio con l'esercito, con la forza militare, il culto cristiano e il Vangelo appunto deciso dall'impero romano a queste popolazioni. Si vietano tutte le altre religioni, tutte le altre festività, si trasformano le loro abitudini secolari in un sistema di appunto di festività cristiane, adattando appunto la vita, il messaggio di Cristo a quello che voleva l'impero. Però siamo di fronte a un problema grande, innegabile, è che la Chiesa cattolica apostolica romana, che è la rappresentante di Cristo in terra, è anche la responsabile prima dell'uccisione di Cristo, perché Cristo è ucciso dall'esercito romano, è ucciso da Ponzio Pilato, e l'impero romano, che si vuole raffigurare al mondo come il rappresentante in terra del cristianesimo, deve in qualche maniera lavarsi la colpa di aver ucciso Cristo, anche se a fondo della religione cristiana c'è la resurrezione e uno non può risorgere se qualcuno non lo ammazza. Però l'operazione che si fa è quella di dover attribuire a qualcun altro la responsabilità della morte di Cristo, proprio perché i romani non possono mantenere questa macchia presentandosi al mondo come i rappresentanti della religione cristiana, e si scelgono gli ebrei per questa operazione di pulizia dell'impero romano, per lavare questa macchia che è dell'impero romano, per poter meglio far sì che l'imperatore romano rappresenti la religione cristiana. Si dice che Cristo in realtà è stato ammazzato dagli ebrei, perché quando appunto Ponzio Pilato pone agli ebrei la scelta tra salvare Barabba o salvare Gesù Cristo, loro scelgono Barabba, che era un rivoluzionario nazionalista, piuttosto che Cristo, che era un filosofo. Questa loro scelta, in base a questa loro scelta, si accolla al popolo ebraico appunto la responsabilità tutta romana, tutta dell'amministrazione romana, tutta del governo romano, di aver crocifisso Gesù Cristo. Si aggiungerà poi in seguito addirittura appunto il fatto che Dio è stato tradito da Giuda, che era un ebreo, fingendo di non sapere o negando che Gesù Cristo stesso era un ebreo, che tutti i suoi apostoli erano gli ebrei, che erano ebrei, che tutte le persone con cui lui era in contatto nella stragrande maggioranza erano ebrei, proprio perché era ebreo lui stesso. Si nega il carattere di ebraicità di Gesù Cristo, lasciando addirittura soltanto a Giuda questo carattere di ebraicità, tant'è che gli ebrei diventeranno i giudei, non solo perché originari della Giudea, che è effettivamente una regione della Palestina, ma proprio si fa il termine giudeo diventa da termine geografico a termine giuridico religioso, per cui si accolla a Giuda appunto aver tradito Gesù Cristo per denaro, e quindi la responsabilità della morte di Gesù Cristo. E qui comincia per la prima volta la persecuzione anche la persecuzione del popolo ebraico. La Palestina è stata occupata dagli assiri, dai babilonesi, dai romani, dai cananei, dagli ittiti, dagli egiziani, credo tranne Geronimo degli Apache l'abbiano occupata tutti. Nessuno si è mai sognato di perseguitare gli ebrei, nonostante fossero appunto una popolazione nomada non stanziaria della Palestina. Ci sono state in Palestina guerre tra le tribù ebraiche e i cananei, guerre tra le tribù ebraiche e tutte le altre popolazioni della Palestina, ma sono sempre state, come lo sono oggi, guerre per la terra, mai guerre di religioni, mai c'è stata una persecuzione religiosa ai danni degli ebrei in tutto il Medio Oriente fino al Medioevo, fino a che l'impero romano non accolla agli ebrei l'accusa di deicidio, di avere ucciso Gesù Cristo. Fino ad allora ci sono state le normali guerre tra popoli invasori e popoli invasi. La Palestina, considerate l'Italia, sono delle zone di transito, di forte vocazione commerciale, un'unione tra il Mediterraneo e l'India, insomma, praticamente anche. E quindi, come noi ci abbiamo avuto dagli Unni, gli Arabi e i Normanni che sono venuti, chiunque voleva fare del turismo armato è venuto in Italia a farlo, la stessa identica cosa è successa in Palestina, ma mai c'erano state prima di questo momento delle persecuzioni degli ebrei. Anche la distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera di Tito non era stata una persecuzione nei confronti degli ebrei in quanto persecuzione religiosa. C'era stata una rivolta e è arrivata la repressione romana, così come c'era stata in Gallia, così come c'era stata in Inghilterra, così come c'era stata in tutti i posti dove gli occupati dall'impero romano si ribellavano all'impero romano occupante. Altrettanto era successo in Palestina, e la distruzione del Tempio di Gerusalemme va inquadrata in questa chiave. I romani non hanno fatto mai una persecuzione degli ebrei in quanto ebrei o di tipo religioso. Arriva la persecuzione degli ebrei quando appunto c'è questo passaggio dal cristianesimo religione di Stato dell'impero romano. L'imperatore romano, che si presenta come discendente, capo, rappresentante di Cristo in terra, e quindi non può essere lui quello che ha ucciso Cristo, addossa la colpa agli ebrei, e da quel momento nasce la persecuzione degli ebrei anche da parte dell'impero romano. E non a caso si sposteranno, ci saranno migrazioni e spostamenti di popolazione ebraica verso zone che non sono direttamente controllate dall'impero romano prima e dalla Chiesa poi, perché poi la forte persecuzione ai danni degli ebrei avviene per conto da parte di quando si è il passaggio che dicevamo prima, quindi non l'imperatore che diventa papa, ma il papa che diventa imperatore con l'Inquisizione. Abbiamo tutti quanti noi negli occhi le immagini dei campi di sterminio nazisti con la stella a 5 punte tatuata, cucita a 6 punte, sì, scusate, un flashback con la stella a 6 punte cucita sul vestito dei prigionieri ebrei dei nazisti. Non è un'invenzione di Hitler, quella è un'invenzione della Santa Inquisizione. Noi la chiamiamo ancora Santa Inquisizione. Scusate l'errore, è che ci hanno appena fatto i complimenti per l'ottima esegesi e ci siamo emozionati. Sì, e quindi è una invenzione dell'Inquisizione. Tutta la persecuzione che subiranno gli ebrei da questo momento in poi è un fenomeno dovuto, appunto, dicevamo, alla Chiesa Cattolica, al cristianesimo, di cui i palestinesi e le popolazioni medio orientali in genere sono del tutto estranei. Anzi, mentre nell'Europa cristiana si perseguitavano gli ebrei, nel Medio Oriente, ormai diventato islamico, gli ebrei venivano tranquillamente accolti, erano presenti nei califfati, vivevano con gli stessi diritti dei musulmani senza nessun problema. Questo anche perché, come abbiamo detto prima, se il comandamento ebraico era quello "non avrai altro Dio al di fuori di me", non esiste altro Dio, il comandamento, il credo islamico era "Allah è grande", e quindi non "Allah è l'unico", "Allah è grande", e questo permetteva, nell'interpretazione forse originaria, più laica dell'Islam, tranquillamente la convivenza con le altre religioni, in particolare con le religioni cosiddette del libro, cioè che avevano in comune con l'Islam proprio la Bibbia, quindi con i cristiani e con gli ebrei. Quindi, dicevamo, siamo arrivati brevemente dall'impero romano, passeremo poi a quello bizantino, alle crociate. In questo periodo noi abbiamo una forte, abbiamo per la prima volta appunto la persecuzione degli ebrei, che è un fenomeno prevalentemente europeo, che è un fenomeno prevalentemente cristiano, quindi non islamico, che porterà una buona parte degli ebrei ad abbandonare la Palestina, e soprattutto porterà poi alle conseguenze che vedremo la prossima volta, che saranno quelle della creazione del sionismo, dell'ideale nazionalista ebraico, dell'idea che gli ebrei sono un popolo che hanno bisogno di un loro stato per evitare di essere perseguitati. Dico brevemente, considerate la situazione che era quella della Spagna, dove era un califfato, la Spagna occupata dagli arabi, arabi ed ebrei vivevano tranquillamente insieme, e insieme scappano all'arrivo delle truppe cristiane che massacrano tutti quelli che non sono cristiani, che ti mettono la testa su un ciocco di legno e ti chiedono se vuoi essere decapitato o battezzato. E così è stata la cristianizzazione della Spagna, fatta da Isabella la Cattolicissima. Ancora oggi qualcuno vorrebbe farla santa, avveniva con questi sistemi di alta teologia: ti metto la testa su un ciocco di legno, davanti a te c'è il boia con l'accetta, puoi scegliere o l'accetta o il battesimo. Gli ebrei della Spagna scapperanno insieme ai musulmani della Spagna, dalla Spagna, si trasferiranno nel Nord Africa, dove continueranno a vivere tranquillamente e serenamente, loro sì, insieme ai musulmani, mentre quelli che resteranno in Spagna saranno sistematicamente massacrati e perseguitati, perché anche se battezzati non sanno nulla della religione cristiana, continueranno ad avere le loro abitudini che verranno considerate eretiche, e quindi verranno bruciati come eretici nonché battezzati, gli verranno sequestrati tutti i loro beni e tutti i loro averi, che andranno a far parte del patrimonio della corona spagnola, perché la più grande pulizia etnica avvenuta in quei tempi, appunto quella della Spagna ad opera della cattolicissima Isabella, avviene perché era nel regno più povero del mondo, e diventerà, dopo aver deportato tutti quelli che erano cristiani, dei loro beni, delle loro terre, uno degli stati più ricchi del mondo. Anche qui con la religione si giustifica una guerra proprio pecuniaria al 100%, come poi sempre accadrà nella storia, soprattutto da chi come noi la storia la vede per quello che è, non per quello che vorrebbero vedere altri. Quindi finiamo per stasera qui, riprenderemo il discorso la prossima volta. Sì, ricordiamo il signor Talavera, colui che fece i grandi massacri, era il vescovo di Castiglia che fece più grandi massacri, li fece contro i cosiddetti criptogiudei, cioè quelli che si erano ritrovati a capoccia sul ciocco di legno. Hanno detto sì, va bene, mi converto, ma poi magari qualcuno si convertiva pure invece di sua sponte. Il Talavera invece fece una grande opera di catecumenizzazione, fece tradurre anche i Vangeli in arabo, solo che poi prendeva e ti accusava di criptogiudaismo, chiappavano e schioppavi. Tra l'altro ricordiamo che il regno di Granada, il califfato di Granada, ebbe per quasi tutta la sua storia gran visir ebraici, la famosa famiglia dei Ben Youssef, che insomma, e anzi ci vivevano pure parecchi cristiani, parecchi commercianti genovesi se presero la residenza a Granada per motivi fiscali, come funziona anche oggi, e poi con la Reconquista dovettero fare anche loro le fughe in Marocco, seppur non convertiti. Che l'ultima crociata non è stata fatta contro i musulmani ma contro i catari, ed è stata fatta interamente in Europa. E se noi consideriamo le crociate una guerra tra il cristianesimo e l'islam, in realtà l'ultima crociata è una guerra tutta intercristiana, è avvenuta interamente in Europa per imporre quel tipo di religione, quel tipo di visione religiosa funzionale a uno stato imperiale che si voleva imporre con le armi in Europa. E quindi sui catari vi consigliamo le letture di Evangelisti, della saga di Aymeric. Noi prima di chiudere volevamo dare una breaking news, una notizia dell'ultima ora. Amnesty International, che spesso dorme ma ogni tanto si sveglia in tempo, non dopo un paio d'anni di ritardo, ricordiamo Piombo Fuso, e qua hanno scoperto che sono stati commessi crimini di guerra un mese fa. Amnesty International lancia un appello al mondo per la salvezza di Samir Issawi, il detenuto politico che ha fatto un eroico sciopero della fame rischiando anche il martirio, e che ha ottenuto appunto delle condizioni favorevoli alla sua liberazione. Noi avevamo detto di non lasciar spegnere i riflettori sulla sua vicenda, visto che dovrà stare in carcere ancora per fino a dicembre, e le sue condizioni di salute sono più che precarie. Infatti Amnesty International lancia un appello in cui invita a intervenire come comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale, lanciando un appello per la salvezza e la protezione di Issawi, patriota palestinese nelle carceri israeliane nonostante le sue gravi condizioni di salute. Per il suo stato di salute deve essere restituito alla sua famiglia o ricoverato in un ospedale dotato di tutte le attrezzature e le competenze mediche necessarie per un trattamento sanitario idoneo. Ricordiamo noi che ha fatto 6 mesi di sciopero della fame, con possibilità di essere assistito da membri della sua famiglia, a cui è impedito l'accesso attualmente al sistema carcerario sionista, e monitorato in continuazione da esperti internazionali, come previsto anche dalle leggi internazionali. Insomma, tutta la petizione la trovate sulla piattaforma change.org, la potete anche firmare. Si intitola appunto Amnesty International 2. Un appello al mondo per la salvezza di Samir Issawi. An appeal to the world for the salvation of Samir Issawi. Noi chiudiamo qua alle 21:27 minuti primi. Questa era Radio Cufia dai microfoni di Radio Default. Ricordiamo brevemente i nostri contatti: www.radiodefault.it, il nostro account Skype radio.default, il nostro contatto Facebook Radio Default. Ricordiamo che parecchi articoli sui prigionieri, sull'attualità e ultimamente sui partiti politici palestinesi che stiamo traducendo li trovate su castelliperlapalestina.noblogs.org. Soprattutto c'è una compagna del Fronte Popolare, una giornalista, Hasma Al-Ghul, che sta traducendo una serie di articoli, cioè su cui noi stiamo traducendo una serie di suoi articoli su varie fazioni islamiste palestinesi. È un bene conoscerle anche per evitare semplificazioni e stupidaggini varie. Quindi con questo vi salutiamo, non crediamo che ci sia dopo Rise Up, almeno i vari pallaccioni non sono in non sono in radio, e quindi noi vi lasciamo con la nostra sigla dei Dark Team, Vittorio Arrigoni, Una Dicum. Buona libertà a tutti e a tutti, la Palestina continuerà a esistere e se superiamo i problemi tecnici anche noi. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك واصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم سمعن خدر المعادي مشيت على الايادي بالايادي مساعد مع حم الموت مطابق بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادمع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف فيتوريو أخي سلامنا